Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, the secret part. The people down below, we all wanna know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Buonasera, buonasera a tutte, tutti e tutto l'ascoltatore di Radio Wombat. Questa è Nervature, infatti io sono Addu qui con voi. Lunedì 23 giugno 19.02, fa caldo, per fortuna c'è almeno un po' di vento oggi. E che dire, Nervature continua anche in estate, imperterrita, con cadenza settimanale, magari può succedere, diciamo, ogni tanto che me ne perda qualche d'una di puntata, ma di base ci sono. E vabbè, e quindi niente. Semmai vi farò sapere in anticipo quando lo saprò se perdo puntate. Che dire, oggi sono da sola qui in regia, ricordo i contatti della radio, intanto radiowombat.net è il nostro sito da cui potete trovare tutti i podcast delle puntate di trasmissioni appunto attive, ma anche delle passate, quindi andatelo bene bene bene a spulciare, troverete di tutto e di più, podcast per la spiaggia, la montagna, il fiume, le passeggiate e anche il lavoro, perché no? Quindi se non vi volete annoiare, cuffiette e via. Ci potete ascoltare quindi dallo streaming sul sito oppure dalle 13.59 le frequenze in AM nella zona ovviamente fiorentina di nostro interesse. E vi ricordo anche il link per accedere al pad direttawombat.vado.li, che è quindi il modo che avete per chiacchierare con me e con noi in diretta. E, è un foglio di testo condiviso, quindi aprite, scrivete, io leggo e vi rispondo. Che dire, trovate anche dalla pagina dei contatti del sito altre informazioni utili, tipo la casella di posta che potete usare per contattarci qualora siate interessati a dirci qualcosa. Io prima di iniziare con la lettura di oggi, ovvero infatti oggi continuiamo con l'audiolibro iniziato settimana scorsa delle memorie di un vecchio giardiniere, inizierei ovviamente prima con un pezzo per così entrare un po' nel mood e rilassarsi insieme. Io sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé, che nella notte ti chiama, che pace non ha, sono l'amore che non sente pietà. Io sono il vento, se ti accarezzo non devi fidarti di me. Io non conosco la legge che guida il mio cuore, sono l'amore. L'amore, qualcosa c'è in me, più forte di me. Sono l'aria che talora sospira e che al sole del mattino più dolce si fa. Sono la furia che improvvisa si adira e che va, fugge, va dove andrà non lo sa. Io sono il vento. Io sono furia che passa e che porta con sé. Ho attraversato il deserto cercando di te, t'amerò, era scritto così. Qualcosa c'è in me, più forte di me, più forte di te. bene d'amore, qualcosa c'è. Sono l'aria che talora sospira e che al sol nel mattino più dolce si fa. Sono la furia che improvvisa si adira e che va, fugge, va, dove andrà non lo sa. Io sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé. Versati il deserto cercando di te, t'amerò, era scritto così, cosa c'è in me? Più forte di me, più forte di te. E quindi la prima canzone che abbiamo ascoltato insieme era Io sono il vento di IOM. Ora invece stiamo ascoltando l'album Ascensão. A sua luz che vem da cachoeira, das santas águas doces di mamãe Oxum. A sua luz eluz os seus encantos, a sua luz eluz o seu axé. A sua luz que vem da cachoeira, das santas águas doces de mamãe Oxum. Yeah, yeah, yeah, yeah, meu caminho assim feita com as miçangas. Esatto, esatto, l'album Ascensão di Serena Assunção. Quindi continuiamo un po' con questo mood latineggiante, diciamo. E me lo terrei quindi come sottofondo per, come vi introducevo in apertura, continuare con l'audiolibro de Memorie di un vecchio giardiniere. A sua luz eluz os seus encantos, a sua luz eluz o seu axé. A sua luz que vem da cachoeira, das santas águas doces de mamãe Oxum. A sua luz eluz os seus encantos, a sua luz eluz o seu axé. A sua luz que vem da cachoeira, das santas águas doces de mamãe Oxum. Yeah, yeah, yeah, meu caminho assim feita com as miçangas, das santas águas doces de mamãe Oxum. Yeah, yeah, yeah, yeah, meu caminho assim feita com as miçangas, das santas águas doces de mamãe Oxum. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, Quando una settimana prima dell'annuale mostra floreale, il giovane Herbert annunciò di voler partecipare al concorso, insieme con gli auguri, Mary Brain gli consegnò un elenco e lo spedì fuori dal cottage. ingiungendoli di ritornarvi soltanto a mostra conclusa. Mary sapeva bene come si scatenavano le lingue del villaggio, soprattutto quando uno vinceva un premio alla mostra. Due erano le occasioni in cui venivano a galla gli istinti peggiori degli abitanti della piccola comunità. La decorazione della chiesa per Pasqua o per Natale, quando le gelosie perdevano ogni freno, e la vittoria di un premio alla mostra floreale, quando si scatenavano le maldicenze più disgustose contro i vincitori. Se per un caso strano la composizione di Herbert avesse attirato lo sguardo del giudice, tutti avrebbero detto che lei lo aveva aiutato a scegliere i fiori e a sistemarli. Proprio come dicevano che Daniel Green non sapeva affatto coltivare le carote e che Silas Musto si era fatto prestare un paio di pastinache dal capo giardiniere della villa. In Mary Brain lo spiegò ben bene al coraggioso cavaliere in erba prima di chiudergli la porta alle spalle. E così, abbandonato a se stesso, il giovane Herbert assaggiò per la prima volta il gusto dolce e amaro della responsabilità personale. Si sentì nuovamente come un gattino che la madre pungola con la punta dell'artiglio, informandolo che da quel momento in avanti deve cacciarsi i topi da solo. Ora doveva attingere alla propria riserva di esperienza, di conoscenza e forza morale. Già, forza morale, perché pur sapendo dove trovare i fiori e come si chiamavano, avrebbe dovuto affrontare quei contadini terrorizzanti che comparivano improvvisamente dal nulla e che li sbraitavano contro mugghiando come il grosso toro con l'anello al naso che a volte conducevano lungo la strada. La prospettiva lo spaventava a tal punto che fu lì lì per rinunciare, ma si rammentò del vecchio canale dove i fiori crescevano come la gramigna e nessuno aveva da ridire che qualcuno ne raccogliesse quanti ne voleva. Aveva molto da perdere a non avventurarsi per le campagne, ma uno strano istinto gli diceva che aveva molto da guadagnare a concentrarsi su un settore limitato. Inoltre, quasi tutti i suoi fiori preferiti crescevano lungo il canale, e dato che crescevano assieme, sarebbero stati belli assieme, come persone che si conoscono da sempre, che si piacciono reciprocamente, che vestono allo stesso modo e così via. Il piccolo Herbert non ragionò precisamente in questi termini, ma qualunque cosa era meglio dell'avventurarsi in quelle enormi distese coltivate di dominio privato. Pertanto si diresse al canale, munito di un vecchio secchio e di uno dei coltelli da tavola meno arrugginiti della signora Pinnegar. Dovette subito imparare la lezione che tocca a ogni giardiniere. I fiori non fioriscono tutti nello stesso momento. E quindi si arriva o troppo presto o troppo tardi. I fiori che nascono oggi non sono mai belli come quelli che sono nati ieri o che nasceranno domani. Il giardiniere è un essere frustrato per il quale i fiori non sbocciano mai nel momento giusto. Attorno a sé vede mutamento e decomposizione, una cosa tristissima, e nessuno riesce a spiegarsi come i giardinieri abbiano la forza di continuare nonostante tutte queste difficoltà. Herbert aveva redatto un elenco dei fiori con cui comporre il mazzolino da presentare al concorso. Giaggioli acquatici, ulmarie, mimuli, cardamine dei prati, fior di cuculo, gigari e, naturalmente, non ti scordar di me. Ma quando arrivò al dunque, dovette eliminarne così tanti all'elenco che gli sembrò non ne rimanesse neppure uno. Era spaventoso! Si sedette sull'argine col secchio appoggiato accanto a sé e, come è successo a tanti altri giardinieri, si rattristò per non riuscire a stipare l'intera estate in un pomeriggio d'agosto. Però c'erano i non ti scordare di me, le mummolarie e le ulmarie. Era un po' incerto circa i mimuli perché temeva che sarebbero appassiti prima ancora di arrivare a casa. La difficoltà di lavorare coi fiori acquatici era proprio quella, che non duravano quanto quelli raccolti nei campi. Un po' come succedeva con i pesciolini d'acqua dolce. Per tenerli in vita si doveva cambiare l'acqua 3 o 4 volte nel tempo che ci voleva per giungere a casa. Beh, non poteva farci nulla. Riempì il secchio di un po' di tutto sperando che Dio gliela mandasse buona. Aqui estou eu, com minha voz recebendo a luz desse chão. Sagrado caminho que corre infinito pros braços abertos do mar. Seus filhos e filhas se banham no canto das águas que passam. Águas que passam renovam os sonhos no leito, no colo do mar. Que possamos andar com clareza seguindo os seus passos. La mattina della mostra si svegliò alle 6 e scoprì che pioveva a dirotto, un vero e proprio diluvio. La sera prima, mentre i concorrenti si aggiravano attorno ai padiglioni gettando sguardi furtivi dentro le roulotte, si pensava che il bel tempo sarebbe durato per una settimana. Lo dicevano tutti, perfino il vecchio Noah Bolton, che sentiva la pioggia a un miglio di distanza. E invece era arrivata, e con certi goccioloni. Se fosse stato un po' più grande, Herbert avrebbe capito che era la cosa migliore che gli potesse capitare. Pioggia di mattina, sereno a mezzodì. Tutto il tempo necessario perché smettesse prima che i giudici cominciassero il giro e iniziasse nel pomeriggio l'importante partita di cricket. Ma la gioventù non si affida all'esperienza. Il grande giorno era arrivato e pioveva. Il bambino, come tanti altri bambini avevano fatto prima di lui, si girò verso la parete e pianse. Questo però non fu l'unico trauma di quella giornata fatidica. Quando arrivò al padiglione principale, si avvide con sgomento che il suo mazzo di fiori selvatici, che aveva amorevolmente composto dentro un piatto da dolci, era grande circa la metà di tutti gli altri esposti. Le digitali, i tassi barbassi dorati, le violacciocche antoniane torreggiavano sulla sua modesta fatica. Mentre lui aveva raccolto una decina di varietà, gli altri ne avevano 20. Sentì il panico chiudergli la bocca dello stomaco. Ecco a che risultato l'aveva portato la paura dei contadini. E ben gli stava. Aveva imparato la lezione per la prossima volta. Gli espositori stavano dando gli ultimi ritocchi alle verdure, alla frutta e ai fiori. Uno lucidava una mela rosea con un pezzetto di flanella. Quando entrarono i giudici, che fecero uscire i concorrenti dal padiglione. Quelle divinità dell'Olimpo che provenivano dai villaggi vicini mettevano tutti in soggezione. D'aspetto serio, emanavano un'aria di solennità appropriata a un'occasione tanto importante. Herbert indugiò sotto il padiglione fino a quando ne ebbe il coraggio, guardandoli pungere le zucche, tagliare a metà le mele, prendere appunti nei taccuini. E mentre li guardava, prese una decisione importante. Un giorno anche lui avrebbe fatto il giudice a una mostra di fiori. Un giorno sarebbe stato a tal punto esperto di fiori che gli avrebbero chiesto di fare il giudice a tutte le mostre di fiori. Sarebbero andati a prelevarlo con un grande calesse e lo avrebbero invitato a sedersi al tavolo d'onore sotto il grande padiglione allestito per il pranzo. Forse avrebbe anche dovuto fare un discorso, chissà. Era tanto preso a fantasticare da avere quasi dimenticato il disastro di quel concorso. Ci mise un paio di minuti a notare che i giudici, quel solenne gruppo di autocrati, erano accompagnati dalla signora più graziosa e più gioiosa che avesse mai visto. Era quasi una ragazzina, non doveva avere più di 18 anni. Il piccolo Herbert rimase impalato in mezzo al padiglione con la bocca spalancata e così su due piedi si innamorò. Per sempre. Per tutti i secoli dei secoli. Amen. Essendo stato incauto, fu scoperto e spedito fuori in malo modo. Ma non ci badò. Come tutti i grandi e nobili amanti, era stordito, era confuso. Capelli d'oro e d'oro i suoi piedi. Il piccolo Herbert uscì alla sfolgorante luce del sole con la testa fra le nuvole. Inciampò in una fune e cadde e poco mancò che si rompesse l'osso del collo. Ma ne valse la pena. Per due ore vagò per la mostra divertendosi nell'immaginare cosa avrebbe fatto se avesse avuto i soldi necessari. In un momento in cui nessuno guardava, si cimentò con la macchina per misurare la forza, ma non riuscendo a sollevare il martello, lasciò perdere e passò a osservare come spalmavano di grasso di maiale il maiale che avrebbe vinto colui che fosse riuscito a prenderlo. Poi si sedette sotto un albero a mangiare i panini che la signora Pinnegar gli aveva preparato e infine andò a guardare l'incontro di cricket che si teneva ogni anno il pomeriggio del giorno della mostra floreale. Era sdraiato sull'erba accanto al padiglione quando un giovanotto bellissimo, in pantaloni bianchi e giacca rosa, gli gridò: «Ehi ragazzo, corri a prendere qualcosa per far sedere la signora!» Quando ritornò, barcollando sotto il peso di una sedia a sdraio grande quanto lui, Herbert fu ricompensato dalla signora gioiosa del padiglione della mostra con la prima moneta da 6 penny che avesse mai posseduto e con un sorriso. Corse via, confondendosi fra le giostre e le altalene. Dimenticato l'incontro di cricket, dimenticata la mossa floreale, il giovane Herbert, con la moneta in tasca e uno strano battito sordo sotto la giacchetta di velluto, era il ragazzo più felice della festa. Pra dona do mar nos abençoar. Pro amor florescer, pro bem imperar. Reza, reza pra quem não crê, reza pra conquistar, reza pra agradecer o dia que vai chegar. Reza pra quem tem fé nas lindas que vem de lá, reza pra proteger tudo nesse lugar e na. Reza pra conquistar, reza pra agradecer o dia que vai chegar. Reza é pra quem tem fé nas lendas que vem de lá. Reza pra proteger tudo nesse lugar. E na dona do mar nos abençoar. Reza pro amor florescer, pro bem imperar. Reza, reza pra quem não crê, reza pra conquistar, reza pra... Alcune ore dopo, quando il sole cominciò a calare dietro i grandi olmi del parco, la folla si radunò attorno al padiglione dove sarebbero stati assegnati i premi ai fortunati vincitori. Herbert non era granché interessato, ma quando vide che chi distribuiva le mezze corone, gli scellini e le monete da 6 penny, si intrufolò fra gli astanti fino a mettersi in prima fila per guardare bene bene bene la bella signora. I vincitori salirono uno alla volta i gradini per ricevere il premio, applauditi dai concorrenti meno fortunati. C'era la vecchia signora Edmonds, che faceva le focacce migliori del mondo, e il direttore della banda locale, che aveva anche allenato i suoi ragazzi al tiro alla fune, portandoli alla vittoria. A quanto pareva, quasi tutti ricevevano un premio, a parte il piccolo Herbert. Ma non gliene importava un fico secco. A un certo punto... Composizione con fiori selvatici, concorso per alunni sotto i 12 anni di età. Primo premio, Herbert Pinnegar. La bella signora era in piedi e reggeva in mano una busta bianca, ma nessuno si faceva avanti. Il legittimo proprietario, il bambino della prima fila, era lontano in un paese dorato in cui i cavalieri cavalcavano cavalli bianchi e si infilavano reciprocamente con le lance. Qualcuno gli diede una spinta nella schiena. «Datti una mossa, sta parlando di te!» disse una voce, e il giovane Herbert fu letteralmente buttato sui gradini. «Ma guarda, è il ragazzino che mi ha portato la sedia a sdraio!» disse la signora. «Sei stato molto gentile. Sai perché ti ho assegnato il primo premio?» «No, signora», rispose Herbert e mai diede risposta più sincera. «Perché hai raccolto dei fiori acquatici invece di prendere le prime cose che ti capitavano sotto mano e metterle assieme alla meno peggio. Un giorno o l'altro vorrei che mi aiutassi a sistemare il mio giardino. Adesso puoi andare». Naturalmente Herbert avrebbe dovuto toccarsi il cappello, girare elegantemente sui talloni, scendere i gradini di corsa e mostrare la mezza corona scintillante ai suoi coetanei invidiosi. Ma non fece nulla di tutto ciò. Rimase fermo dove era, a singhiozzare miseramente. «Non ha nemmeno allungato la mano per prendere la moneta», disse una matrona incredula alla vicina. Ma il vincitore del secondo premio stava aspettando, e perciò Herbert fu spedito frettolosamente giù dai gradini, e l'accaduto fu attribuito a un attacco di nervi, cosa che succedeva di sovente ai ragazzini delle zone rurali più isolate. I nervi, invece, non c'entravano affatto. Era la coscienza che aveva alzato il suo capo inquietante. Il piccolo Herbert avrebbe voluto spiegare alla signora che non era stata la bravura, bensì la paura dei contadini che gli aveva fatto vincere il premio. Nel suo intimo sapeva di averla ingannata e che non se lo sarebbe mai perdonato. No, mai, neppure se avesse vissuto 100 anni. E infatti così fu. Quell'anno il passaggio dall'estate all'inverno avvenne senza alcun ostacolo. Non piovve, la terra si crepò e il letto del corso d'acqua della contea si sarebbe potuto spazzare con la scopa. A memoria d'uomo non si ricordava un'estate simile. I raccolti furono scarsi, ma non essendovi scarti, furono superiori alla media. I prezzi erano bassi, ma era basso anche il costo della manodopera per pulire i campi in condizioni tanto ideali. Fu raccolto tutto con soddisfazione di tutti. I ragazzi del villaggio si divertirono come non mai, correndo e gridando a più non posso dietro ai conigli che scappavano di qua e di là man mano che i campi di frumento si restringevano. Ogni tanto un coniglio giovane, impaurito dal rumore, correva a nascondersi sotto un covone, dove veniva catturato da un monello non più grande di lui. A volte, molto più raramente, un buon colpo assestato col manico del forcone ne stanava un altro, ma di solito quelle creaturine ne uscivano più spaventate che ferite. L'unica persona che non condivideva la contentezza generale era la moglie del fattore. Per quasi tutto l'anno aveva a disposizione quanto aiuto voleva sia per il giardino che per l'orto, che per le faccende domestiche. Poteva sempre contare su un mozzo di stalla per vangare un po' il giardino e sulle donne dei dintorni per il bucato settimanale. Ma adesso lavoravano tutti nei campi. I ragazzi andavano avanti e indietro con i cavalli per trasportare le balle di paglia che le donne legavano e anche i bambini si davano un bel po' da fare. La baldoria del raccolto agguantava nella sua morsa famelica la manodopera avventizia, ma i fuchi parassiti non erano tollerati in quell'alveare umano indaffarato. Pertanto, quando il fattore, affannato e assillato da tutta quell'attività, si trovò davanti Herbert completamente assorto a sezionare una margherita, la cosa non gli garbò. Aveva appena ricevuto una bella lavata di capo dalla moglie perché non c'era nessuno a portargli i bidoni dell'acqua e ordinò a quel piccolo perdigiorno di presentarsi alla porta sul retro della casa e di farlo anche di corsa. Gonna seem like days. Seems like my baby will stop her whole evil way. But it seems like hours and hours. Seems like days. Well now, seems like my baby child. Well child will stop her load our way. Herbert cercò di eseguire l'ordine il più in fretta possibile, per quanto glielo consentiva la gamba zoppa. A dire il vero, era contento di dare una mano in giardino, e non perché alla fine avrebbe ricevuto un paio di penny, ma perché lo addolorava vedere i fiori soffrire per mancanza di un goccio d'acqua al termine di una giornata torrida. Così riempì un paio di secchi alla pompa che era nel cortile e li portò barcollando alla moglie del fattore, che stava già dando l'acqua alle piante con un innaffiatoio. Lei lo accolse a braccia aperte. «Che Dio ti benedica! Stavo per impazzire, arrivi tu! Adesso possiamo finire in metà del tempo!» Herbert arrossì di piacere. Ecco un lavoro che valeva la pena di fare per qualcuno che valeva la pena di aiutare. Ce la mise tutta e i secchi arrivavano con la velocità e la precisione di una moderna cinghia di trasmissione. La moglie del fattore ne rimase impressionata. Curava il proprio giardino con grande entusiasmo e riconosceva subito chi era animato dalla sua stessa passione. Tra un viaggio e l'altro alla pompa gli parlò di semenzai, di letti freddi, di metodi di coltivazione, di come sistemare una bordura. Qui si metteva la lobelia e lì la flox, più minuta, che aveva bisogno di un sostegno per formare un disegno ben ordinato. Dietro venivano messi gli astri, le violacciocche deliziosamente profumate e il salpiglosso vellutato. Se si avevano dei gerani, tanto meglio, ma le piante annuali facevano comunque la loro bella figura. La moglie del fattore aveva abitudini e gusti conservatori. Quelle erano cose che seguivano una routine, proprio come la notte segue il giorno e la luna spunta quando cala il sole. Oltre a qualche pianta di alloro e al grande maggiociondolo dorato, non aveva mai sentito parlare di arbusti da fiore e altre cose superflue del genere. Il roseo ciliegio a grappolo era una novità e il lilla bianco era ancora da avvenire. Ma nel suo ambito limitato non aveva rivali, era un'artigiana della vecchia scuola. Ma voi siete tanto vecchi o tanto in gamba da ricordare con piacere e nostalgia i giardini di campagna del XIX secolo? La portulaca grandiflora sotto la finestra della cucina, il garofano dei poeti così semplice d'aspetto, le grandi rose centifoglia e il muschio che non aveva ancora perso il profumo. La reseda che fioriva nei terreni poveri e ghiaiosi sotto l'agrifoglio. Il capelvenere che copriva, simile a un tappeto, i gradini grigi delle vecchie case di campagna. I mughetti che crescevano infestanti come le erbacce. Ci inganniamo, forse, credendo che la ruggine e altri parassiti delle piante da giardino siano invenzioni moderne di un demonio moderno, sconosciute in quel paradiso terrestre. Di sicuro c'erano le lumache perché le cercavano al lume di candela con una vecchia lanterna e i bambini ricevevano un penny per 100 lumache, tutte raccolte nell'ora prima di andare a letto. Già, ce n'erano tante perché i giardini erano innaffiata come non lo sono più stati da allora. Nonostante tutti quegli aggeggi moderni che girano e spruzzano l'acqua, esposti con tanta ingannevole profusione alle mostre agricole. Il lavoro era faticoso, da spezzare la schiena. Trasportare innumerevoli secchi d'acqua, stare inginocchiati su dei sacchi vecchi per metà del tempo per trapiantare all'infinito le piccole e robuste piante annuali che spuntavano nel terriccio e ricavato dalle foglie del sottobosco in fondo al giardino. Ogni anno si radunavano in un mucchio le foglie dei cespugli di castagno e in primavera si setacciava quel buon terriccio destinato alle cassette semenzaio da collocare l'una a fianco all'altra lungo il vecchio muro di mattoni. Dopodiché si cominciava tutto da capo. Bisognava amarlo quel lavoro perché altrimenti ci sarebbe messi a piangere dalla disperazione. Il piccolo Herbert si buttò a capofitto in quel mondo di ardua fatica e lo amò fin dal primo momento. Dopo aver trasportato secchi d'acqua fino a non reggersi più sulle gambe, chiese se poteva tornare il giorno seguente. «Ma che Dio ti benedica!» gli disse la moglie del fattore. «Certo che puoi tornare domani!» E benedicendo il ragazzino per la seconda volta in una sera, era sincera. Offrì a Herbert il penny consueto, ma lui lo rifiutò. «Perché non lo vuoi?» gli chiese, stupita. «Perché mi piace venire qui!» fu la risposta. A suo modo di vedere, lavorare significava fare qualcosa che non piace fare e si era pagati soltanto per lavorare. E così le lunghe serate estive passarono a volte in un'atmosfera tranquilla di reciproca soddisfazione. Tutti erano soddisfatti e contenti, anche la signora Bellman, anche il signor Bellman, il fattore, che rientrando dai campi la sera trovava il pasto pronto ed era più felice che mai. Non che notasse alcuna differenza nel giardino, i mariti non notano mai quello che le mogli fanno durante il giorno, soprattutto quando si tratta di fiori. Una può ammazzarsi di lavoro, riempire di fiori tutti i vasi della casa, spostare il divano sull'altro lato del caminetto e credete che un uomo faccia salti di gioia davanti a tanta meraviglia? No, signore, proprio per niente. In quella guerricciola fra i sessi, il giovane Herbert parteggiava per le signore. Per quanto si sforzasse, non riusciva a capire come il fattore potesse entrare nel giardino senza notare tutto quello che era stato fatto. Ora le lobelie formavano un cerchio perfetto attorno alla bordura. Le violacciocche profumavano l'aria notturna e non si erano mai visti astri come quelli. Eppure il fattore ci passava in mezzo senza neppure girare la testa. Non era degno di avere un giardino. Si sarebbe meritato che tutti i fiori sparissero lasciando un quadrato di terreno spoglio in cui avrebbe naturalmente piantato delle rape e ne sarebbe stato anche contentissimo. Ma con l'avvicinarsi della fine dell'estate, Herbert dovette preoccuparsi di faccende più serie. Per cominciare, le giornate si accorciarono e non c'era il tempo di innaffiare le piante, anche nel caso in cui ve ne fosse stato bisogno. Per fortuna non era così. Poi, una mattina, tutte le dahlie si annerirono e morirono, colpite alla prima brinata. E infine, il lavoro nei campi era terminato e nel periodo morto che precedette il Natale, la manodopera avventizia abbandonava, cosicché, quando il fattore non seppe cosa far fare ai braccianti, li mandò dalla moglie che aveva bisogno d'aiuto per l'orto e per il giardino. Arrivarono armati di grandi rastrelli e di vanghe ed estromisero il giovane intruso, che finì col rifugiarsi nel capanno degli attrezzi. quanto li detestò, mentre sventravano il suo amato giardino come fosse un campo arato. Fintanto che si limitarono all'orto, non fu tanto doloroso. Ma quando attaccarono le bordure di fiori, sparpagliando ovunque bulbi e radici delle preziose piante perenni, Herbert soffrì moltissimo. E ancora una volta giurò che non sarebbe mai andato a fare il bracciante. Potevano picchiarlo, farlo morire di fame, mandarlo al ricovero di mendicità, ma non avrebbe mai accettato di fare il contadino. Quando infine se ne andarono, raccolse le loro povere vittime e le rimise al sicuro nel terreno materno. Se non che avere grandi progetti era una cosa, ma altra cosa era realizzarli. Per cavarsela non gli sarebbe bastato dire che non voleva fare il bracciante. Natale era ormai vicino e alla fine del semestre avrebbe terminato la scuola. Cosa sarebbe successo a quel punto? Tutti si aspettavano che andasse a lavorare presso una fattoria, come gli altri ragazzi della sua età. A nessuno sembrava passare per la mente che forse non era quello che lui desiderava. Se non erano i ragazzi a fare il lavoro dei campi, chi l'avrebbe fatto? E comunque, c'era altro che potesse fare? E lui, per cosa era adatto? Di notte, sdraiato nel letto, quelle domande si trasformavano in folletti dispettosi che con il loro borbottio lo tormentavano dalla sponda del letto. Era consuetudine che alla fine del semestre i ragazzi che terminavano la scuola si recassero alla canonica per una chiacchierata amichevole con il presidente del consiglio scolastico. Il giovane veniva accompagnato nello studio, dove, seduto dietro la grande scrivania, lo attendeva il parroco, il quale gli faceva un paio di domande sui viaggi di San Paolo o sul discorso della montagna, giusto per assicurarsi che il ragazzo fosse attrezzato per affrontare la grande impresa della vita. Poi gli chiedeva cosa intendesse fare e quello che mormorava che sarebbe andato a fare il mozzo di stalla in una fattoria. A quel punto il parroco gli batteva affettuosamente la mano sulla spalla, gli consegnava una moneta a 6 penny e il ragazzo cominciava il suo cammino nel mondo. Quando giunse il momento per Herbert di fare il grande passo, qualcosa non andò per il verso giusto. Tanto per cominciare, il parroco non era solo. Seduta in poltrona, immersa nella lettura di una rivista, c'era la signora della mostra floreale. Ormai era noto a tutti che avrebbe sposato il giovane capitano Charteris, il quale aveva acquistato la grande villa, e che il matrimonio sarebbe stato celebrato dopo qualche giorno. Pertanto, essendo occupato con altre faccende, il parroco saltò il solito preambolo e venne subito al punto. Allora, Pinnegar, disse, cosa hai intenzione di fare? Il giovane Herbert spostò il peso da una gamba all'altra. Beh, non lo so, signore, rispose. Quell'infrazione alla tradizione era piuttosto spiazzante. Ma certamente si troverà un lavoro adatto a te in fattoria, non credi? No, signore, rispose il giovane Herbert. Ma tu vuoi lavorare nei campi, non è così? Insistette il parroco. No, signore, ripeté il giovane Herbert. Quella semplice negazione ebbe diverse ripercussioni. Il giovane Herbert non credette alle proprie orecchie nel pronunciare il tradimento. Il parroco spalancò la bocca per lo stupore e la signora cominciò a ridere, di loro fino alle lacrime. Fu lei la prima a parlare. Ma reverendo, perché dovrebbe andare a lavorare nei campi se non desidera farlo? Riacquistando la padronanza di sé, il parroco rispose, lo fanno tutti i ragazzi del villaggio, altrimenti da dove prenderemmo i carrettieri e i bovari di domani? C'è bisogno di loro per lavorare la terra, sono stati educati a quello scopo. Parlerò a Bellman, la signorina che aveva osservato lo strano bambino lo interruppe. Ma non sei il ragazzino che al concorso ha vinto il premio per i fiori selvatici? Sì, signorina, rispose il giovane Herbert. Ma certo, sei tu l'unico che abbia dimostrato della fantasia. Ti piacciono i fiori, vero? Sì, signorina, rispose il giovane Herbert, deglutendo. Ti piacerebbe venire alla villa ad aiutarmi a sistemare il nuovo giardino? I cancelli del paradiso si spalancarono ruotando sui perni ben oliati e subito dopo lentamente si richiusero. Ma Charlotte, disse il parroco, preferirei che non vi mischiaste. Cosa ne sapete della necessità delle nostre campagne? Siete qui da 2 minuti soltanto. Se è per questo, reverendo, ribatté sorprendentemente la signorina, cosa ne sapete voi del paradiso terrestre? Non ci siete mai stato. You do the women in the street, believe you'll have a vampire too. Now running around your mess with every single woman you meet, that will never do. Now you wake up some of these mornings, another mule in your stall. Vampire women gonna be the cause it all. Dress your wife like you do the women in the street. Believe you'll have a vampire too. Il giovane Herbert, e questa è l'ultima volta che sarà chiamato così, cominciò il suo primo lavoro subito dopo Capodanno. Quel momento favoloso, atteso con trepidissima gioia, che nessuno comprendeva se non il piccolo interessato, passò inavvertito sulle placide acque della vita del villaggio. Bert Pinnegar si alzò presto, si impomatò i capelli di vasellina, rifiutò di mangiare la colazione di pane e sugo d'arrosto e si presentò nel parco della villa mezz'ora prima che il suo nuovo mondo fosse completamente sveglio. Col vestito della festa somigliava a un giovane storno caduto dal nido, soprattutto quando si appollaiò sull'angolo di una piccola serra fredda, aspettando che il mondo gli precipitasse addosso. Lì lo scoprì il capo giardiniere, il signor Addis, che lo guardò con tanta disapprovazione da sfiorare l'ostilità. Il signor Addis aveva già 2 ragazzini a creargli confusione nel giardino e aveva una propria teoria a proposito degli aiutanti. Un aiutante è un aiutante, 2 aiutanti sono mezzo aiutante e 3 aiutanti equivalgono a nessun aiutante. E inoltre non era stato interpellato. Per via del matrimonio e della successiva partenza per la luna di miele, la giovane padrona aveva completamente dimenticato di informarlo della nuova assunzione. Si cominciava bene. Presto si sarebbe trovato tra i piedi metà dei giovani parassiti buoni a niente del villaggio. Era un bravo uomo e anche gentile, che sapeva stare al proprio posto e si aspettava che gli altri dimostrassero di capire quale pesante fardello gravava sulle spalle di un capo giardiniere. Uno all'antica che prendeva seriamente il proprio lavoro. Desiderava svolgere le proprie mansioni in modo soddisfacente, ma come poteva riuscirci se tutti gli remavano contro? Lo spiegò per benino, con pazienza e un po' di foga, a Bert Pinnegar, che aveva tirato le mani fuori dalle tasche ed era scattato sull'attenti. Inoltre, concluse il signor Addis, dove avrebbe trovato il tempo di insegnare a un principiante tutto quello che c'era da sapere, anche supponendo che il principiante fosse intenzionato a imparare, cosa che lui, il signor Addis, dubitava fortemente comunque. Era Bert Pinnegar intenzionato a imparare tutto quello che lui, il signor Addis, era intenzionato a insegnargli? Bert Pinnegar gli rispose che ne sapeva già un bel po'. Oh, oh, ridacchiò il signor Addis. Allora forse potrai insegnarmi tu un paio di cosette. Non lo disse con intenzione di essere preso alla lettera, perché non pensava minimamente che Bert Pinnegar potesse insegnargli alcunché. Ma il suo nuovo aiutante proveniva da un posto in cui la gente diceva ciò che pensava davvero e che quando parlava, parlava sul serio. Perciò il ragazzo riflette a fondo sulla facezia prima di azzardare la risposta. Non so, farò del mio meglio. Al signor Addis ci vuole una settimana per digerirla e al ritorno della nuova padrona del villaggio di nozze, sì, dal viaggio di nozze, i due non avevano ancora fatto una chiacchieratina a quattro occhi, come si usa dire. Il signor Addis, però, era un uomo giusto. Aveva visto Bert Pinnegar che si dava da fare e lo aveva perfino colto a lavorare qua e là nel parco oltre l'orario. Pertanto, quando gli fu chiesto cosa ne pensasse il nuovo ragazzo, rispose che, col tempo, forse si sarebbe riusciti a ricavarne qualcosa. Il signor Addis, appunto, era un uomo giusto. Lui stesso ci teneva a ripetere che faceva agli altri quello che avrebbe voluto che gli altri facessero a lui. E inoltre aveva un debole per i ragazzini che si fermavano oltre l'orario quando c'era anche lavoro da terminare. Perciò inghiottì il rospo e ci mise una pietra sopra. E forse fu meglio così, perché sarebbe venuto il momento, a tempo debito, in cui il signor Addis avrebbe appreso da Bert Pinnegar più di quanto entrambi credessero. Thank you. Alla fine del XIX secolo, i parchi privati inglesi avevano gradualmente raggiunto una composizione di riposante semplicità, a mezza via fra l'antica eleganza e la professionalità matura. I lunghi viali panoramici, i piccoli giardini all'italiana e le statue classiche erano passati di moda, mentre i prodigi moderni dell'esposizione floreale di Chelsea erano ancora là da venire. La vita era tranquilla, senza voli di fantasia e piuttosto soddisfatta di sé. Non vi erano nuovi mondi appetibili da conquistare, non c'era fretta, né affanno, né inquietudine. Il genere di mondo che produceva il genere di uomini al quale il signor Addis era orgoglioso di appartenere. Era l'epoca delle abitudini consolidate, quando non ci si vergognava di dire che ciò che era valso per la generazione precedente valeva anche per l'attuale. Da 30 anni il signor Addis era capo giardiniere della villa e non se ne sarebbe andato se non quando l'avrebbero portato via chiuso nella bara. Un mondo solido. Ma certamente non un mondo in cui un giovanotto potesse affermarsi in un batter d'occhio. Farsi una posizione richiedeva del tempo, ma una volta ottenuta essa era sicura. Non si cambiava lavoro ogni momento e la generazione successiva doveva aspettare il proprio turno, proprio come aveva fatto la precedente. Ciò andava bene per gli adulti, ma non altrettanto per i giovani che dovevano farsi strada nel mondo. Alcuni tentavano di accelerare i tempi lasciandosi crescere la barba a 17 anni, però non imbrogliavano nessuno. Ci provò anche Bert Pinnegar, ma il signor Addis lo spedì a casa a lavarsi la faccia, eppure lui dovette aspettare il suo turno. Era proprio quello il guaio. I vecchi tenevano duro, continuavano a fare le cose sempre nella medesima maniera, senza nuove idee. Esperienza la chiamavano e la facevano franca perché era impossibile sapere cosa nascondessero sotto i lunghi basettoni. E spesso avevano più barba che cervello. Rimanevano attaccati a lavori meglio pagati, diventando di giorno in giorno più irosi, finché alla fine non si ammalavano di reumatismi e il loro posto era preso da qualcuno in condizioni fisiche migliori. Ma neppure allora se ne stavano tranquilli. Si sedevano fuori dall'uscio di casa e rimbrottavano tutti, come una vecchia cornacchia appollaiata in cima a un olmo. Avevano sempre da predicare, ma dato che nessuno dava loro retta, non facevano danno. Il signor Addis non era ancora giunto a quest'ultimo deplorevole stato della vita, ma vi si avvicinava. Era ancora parecchio in gamba, però. Attenendosi strettamente alla consuetudine, non permetteva che esperimenti mai riusciti minassero la sua autorevolezza. I suoi giovani aiutanti, pur brontolando fra di loro, imparavano subito a fare come lui voleva. Intendiamoci bene, il signor Addis aveva molte buone qualità. Il rispetto che pretendeva dagli altri si fondava sul rispetto che portava al proprio lavoro. Lui amava il giardino e vedere una piantagione crescere in un suo prato lo faceva soffrire più di un foruncolo. Sotto il bottone del colletto. Un giorno, mentre portava una carriola di rifiuti alla buca di compostaggio, Bert Pinnegar vide il signor Addis immobile in mezzo a un prato, come la statua di Wellington. Aveva visto qualcosa e chiamava Bert perché andasse a darvi un'occhiata. «Cos'è quella roba?» gli chiese. «Una margherita», rispose il giovane Pinnegar, spingendo la carriola sul sacro tappeto erboso. «Graziosa, vero? La prima che vedo quest'anno!» Per una frazione di secondo il signor Addis soppesò con lo sguardo il luogotenente, poi emise un suono simile a quello che aveva fatto il giorno in cui un'ape gli si era infilata nella barba. E Bert Pinnegar scappò a gambe levate con la carriola verso la buca di compostaggio e lì rimase per 2 ore buone, fino a quando i morsi e la fame non lo costrinsero a tornare. Tra i numerosi pregi del signor Addis vi erano la precisione e un raro senso del colore. Le sue giunchiglie marciavano in fila per due lungo una linea rigorosamente diritta, che corrispondeva alla distanza più breve fra 2 punti determinati, tutte perfettamente schierate, senza vagabonde che si allontanassero per formare una curva o un disegno, né gruppetti che bivaccassero in qualche angolo soleggiato. Per piantarle si usava un lungo pezzo di spago con le estremità fissate a due pioli. Si infilava un piolo nel terreno, poi si intendeva ben bene lo spago, si infilava l'altro piolo e si procedeva a interrare i bulbi lungo lo spago, a distanza regolare l'uno dall'altro. Le giunchiglie che crescevano spontaneamente sotto le siepi e attorno ai meli dell'orto non erano degne di nota. Erano come zingari, come bovari o altri componenti anonimi della razza umana. I tulipani erano un po' più laboriosi, perché bisognava tenere conto del fattore colore. Oltre a doverli piantare perfettamente allineati, bisognava fare attenzione che i rossi non si mischiassero coi gialli e così via. Una volta capitò che si confondessero le etichette dei vari sacchi di bulbi e la bordura sotto il muro a meridione fu un'orgia favolosa di colori che fluivano l'uno dentro l'altro come un arcobaleno. Scoppiò il finimondo. Il signor Addis si inveì a destra e a manca come un bisonte ferito preso in trappola finché qualcuno non disse che quella bordura era splendida e lui finse di averla fatta così di proposito. Che vecchia volpe! Comunque, tutto considerato, a Bert Pinnegar il nuovo lavoro fornì delle buone basi. Imparò che quello del giardiniere è il mestiere più duro che ci sia. I ragazzini che lavoravano nei campi credevano che il suo lavoro fosse facile. Doveva solamente gettare i semi di alcune piante che crescevano poi da sole, ogni tanto togliere qualche erbaccia, tagliare l'erba da un paio di prati e la sera innaffiare un poco. In autunno c'erano da raccogliere le foglie e durante l'inverno uno se ne stava seduto nella serra, in pace, al calduccio. E si era perfino pagati. Che vita! A volte, dopo aver passato un paio d'ore in ginocchio a zappettare e a smuovere la terra, Bert Pinnegar arrivava quasi a invidiare i suoi ex compagni di scuola che ora guidavano i cavalli che trascinavano l'aratro. Aiutavano il pastore a chiudere le pecore del recinto e ritornavano alla fattoria seduti sul bordo posteriore del carro del letame. Già, perché tirare la corda di un tosaerba era un lavoro noioso e quanto alle piantaggini, avevano delle radici così ostinate e lunghe che sembrava non finissero mai. Bert arrivò a pensare che arrivassero in Australia e che un giorno, quando il buco fosse stato abbastanza profondo per estirparle, si sarebbe trovato di fronte un nero. Ma i momenti di scoraggiamento erano rari. Il giardinaggio può ben essere il mestiere più frustrante che esista, però la soddisfazione è pari alla fatica, né più né meno. La vita del giardiniere è una lunga lotta contro le forze del male, ma la vittoria merita lo sforzo. A catastrofi esasperanti seguono trionfi spettacolosi. Un momento ci si abbatte e il momento seguente ci si libra sulle ali dell'aurora. Bert Pinnegar non esprimeva ciò che provava usando questi termini, ma dentro di sé qualcosa ripeteva un concetto simile. Yes, when you hear me moaning and groaning, baby. Oh, you know it hurts me deep down inside. Yes, when you hear me holler, baby. Sarebbe stato bello che la pestifera ruggine delle piante non attaccasse le rose o che le lumache smettessero di mangiare i teneri germogli della clematide. Ma non si può avere tutto. La maledizione del paradiso terrestre, la chiamava la signora Addis, e se non lo sapeva lui, che era il più pestifero di tutti. Yeah. quindi per oggi terminiamo qui la lettura di questo libro, Memorie di un vecchio giardiniere, di Reginald Arkell. Continueremo le volte successive e per ora ascoltiamoci qualche ultimo minuto di musica e poi arriviamo alla conclusione di questa puntata. Champagne when I'm thirsty. Bring me a roof when I want to get high. Yeah, bring me champagne when I'm thirsty. Bring me a roof when I want to get high. E E quindi siamo arrivati alla fine di questa puntata e direi ci sentiamo allora lunedì prossimo, sempre, quindi giugno sarà, sempre qui su Nervature circa alle 19 e come ogni lunedì, d'altronde quindi ormai lo sapete. E che dire, buona continuazione di serata, vi passo un ultimo pezzo, Spoonful di Howlin' Wolf. Buon ascolto e appunto buona serata, rimanete connesse e connessi su Radio Wombat. I'm